Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo fatto una puntata con Luca Beltrametti, che è un economista critico dell'Università di Genova, professore di politica economica, però direttore soprattutto del Dipartimento di Economia e nell'ultimo anno appassionato di studi aziendali, e abbiamo cercato di vedere anche delle cose non del tutto sempre ottimistiche sull'Industry 4.0 e anche sul fatto se sia veramente una rivoluzione o no. Allora, infatti, il tema che ci siamo posti ieri era proprio come mai è una rivoluzione eppure non c'è nessun incremento della produttività. Il tema era talmente importante che anche oggi domenica abbiamo reinvitato qui Luca Beltrametti e continuiamo a farci delle domande sul senso di questa rivoluzione che riguarda tutti i produttori. Allora, ricordiamo chi si è collegato adesso, professore, velocemente. È una rivoluzione, la definiscono come una rivoluzione, eppure di vero incremento della produttività non se n'è visto. Come mai? Beh, se vogliamo essere ottimisti, come dicevamo ieri, non se n'è ancora visto. O meglio, non se n'è ancora visto nelle statistiche aggregate, nelle statistiche nazionali. Se andiamo a visitare le aziende e parliamo con gli imprenditori, a dire il vero, alcuni imprenditori entusiasti di queste nuove tecnologie li incontriamo, e alcune realtà aziendali, però per il momento sono situazioni anedotiche, nei dati aggregati nazionali, come appunto dicevamo, ancora non si vede una impennata della produttività. Si vedono alcuni casi molto felici di alcune aziende che hanno introdotto queste tecnologie e sono molto felici di averlo fatto, e questo si vede in maniera apprezzabile nei conti di queste aziende. Però diciamo, siamo in attesa di vedere se ci sarà un impatto davvero macroeconomico importante, quantitativamente importante. Tuttavia la Commissione Attività Produttive della Camera, in uno studio che ha fatto sull'Industry 4.0, ha quantificato il possibile incremento della produttività fra il 30 e il 50%. Non so esattamente quale sia la fonte di questa previsione, ci sono molte società di consulenza che hanno effettivamente prodotto degli studi che danno delle cifre molto ottimistiche di questo genere. Credo che ci sia un pochino di conflitto di interessi, nel senso che le società di consulenza poi hanno interesse che l'azienda sposi queste tecnologie, ecco, perché quindi poi loro vendono consulenze sulla base per sì, questo. Non voglio mettere in dubbio naturalmente la buona fede, ma diciamo c'è sicuramente, insomma, sono studi molto difficili da condurre e sicuramente è difficile prevedere se l'aumento di produttività in 10 anni potrà essere del 20, del 30 o del 50%. Sicuramente ci sono delle evidenze aneddotiche, ripeto, a livello di singola impresa che parlano di aumenti molto importanti di produttività, sicuramente a 2 cifre, ecco. Poi sia il 20, il 30, credo che sia difficile. Vabbè, comunque il nostro tema, rispetto al quale probabilmente non c'è risposta se non vivendo, ma noi almeno sollecitiamo tutte le domande, il nostro tema è: questa benedetta Industry 4.0 della quale si sente parlare di continuo sarà davvero un driver di crescita, oppure serve soltanto ai venditori di consulenze e di tecnologie per fare più fatturato? Avvisi sul traffico e pubblicità e poi lo scoprirete. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Luca Beltrametti, che è direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, e il nostro tema era: l'Industry 4.0 è davvero un volano di crescita o serve soltanto a far guadagnare i venditori di consulenze e di tecnologie? Chi lo sa? Però intanto c'è stata un'indagine alla quale ha partecipato il professor Beltrametti, un'indagine che ha preso in considerazione un significativo campione di imprese, 527 aziende iscritte a Federmeccanica, che era il committente di questa indagine, e ne è venuto fuori un'Italia spaccata in due, dove il 64% degli intervistati hanno adottato almeno una di queste tecnologie e il 36% non ha adottato proprio niente. È giusto, professore? Italia spaccata in due? Beh, sicuramente sì, c'è una pattuglia, non so se sia la metà, ma sicuramente è minoritaria, di aziende che si sono avventurate su questo terreno. E questa indagine condotta da una task force di Federmeccanica effettivamente evidenzia che c'è molto interesse per questa tematica, che il livello di conoscenza è abbastanza buono, che però, e questa indagine è stata condotta prima dell'azione del varo della manovra di legge di bilancio del governo, però diciamo che c'erano intenzioni di investimento molto modeste da parte delle imprese. Per esempio, in un settore di cui si è molto parlato anche dal punto di vista mediatico, come la stampa 3D, che di cui ormai tutti hanno sentito in qualche modo parlare, soltanto il 29% delle aziende intervistate ha dichiarato di avere intenzione di voler investire in questo settore nei prossimi 5 anni, quindi una percentuale molto piccola. Se prendiamo un aspetto tecnologico ancora un po' meno conosciuto, che è la robotica collaborativa, lì soltanto il 16% delle imprese ha manifestato intenzione di investire. Ora, noi non sappiamo quale sia stato l'impatto su questa intenzione di investimento di questi iperammortamenti varati dal governo, però diciamo che la sensazione è che c'è molta paura da parte delle imprese. Ecco, aspetti un attimo, perché a questo punto, secondo me, è giusto mandare in onda una breve scheda che fa il punto sull'indagine. Italia manifatturiera spaccata in due, quella che emerge dall'indagine della Task Force Liberare l'Ingegno, condotta con la collaborazione del professor Beltrametti su un campione di 527 imprese iscritte a Federmeccanica. Il 64% delle imprese del campione, definite adopters, dichiara di avere adottato almeno una delle 11 tecnologie considerate fondative per l'Industry 4.0. Il restante 36%, chiamate non adopters, dichiara di non averne ancora adottata alcuna e in futuro ritiene di continuare così. Gli adopters, in media, esportano una quota maggiore del proprio fatturato, 44% contro 33%, giudicano alto il proprio livello di digitalizzazione, 37% contro 14%, hanno una quota più elevata di dipendenti laureati, 19% contro 12%, investono di più in ricerca e sviluppo e formazione e hanno intensi contatti con università ed enti di ricerca. Gli adopters attribuiscono un'importanza maggiore rispetto al resto del campione al miglioramento della produttività, alla rapidità del time to market e all'utilizzo di sistemi virtuali per la progettazione e la prototipazione. Una curiosità interessante è che le microimprese da 1 a 9 dipendenti, adopters, evidenziano livelli di conoscenza e di adozione superiori rispetto alle piccole e medie imprese. Le tecnologie sulle quali si concentrano maggiormente le intenzioni di investimento degli adopters nel giro di un anno sono la sicurezza informatica, 45%, la simulazione, 26%, il cloud computing, 21%, e la robotica, 20%. Tuttavia, oltre il 50% del totale delle imprese dichiara di non avere intenzione di effettuare alcun investimento nelle tecnologie proposte, con l'eccezione della sicurezza informatica. È importante notare che non emerge una previsione di recupero del ritardo da parte dei non adopters. Le loro intenzioni di investimento nei prossimi anni sono sistematicamente inferiori rispetto a quelle degli adopters, oggi e in futuro. Sorprendentemente, i non adopters attribuiscono poi scarsa importanza alla formazione dei dipendenti e allo sviluppo della cultura manageriale e non hanno alcuna remora a dichiararlo. Rieccoci in linea con Luca Beltrametti dell'Università di Genova dopo avere esposto un'indagine alla quale lui ha partecipato dando un contributo scientifico, dove emerge un'Italia dell'Industria 4.0 spaccata in due, e appunto Beltrametti ci diceva che molte aziende hanno paura. Ma come mai hanno paura di investire in queste tecnologie? Ma secondo me anche perché è stato rappresentato un quadro paradossalmente sbagliato proprio da chi voleva favorire, cioè avere sottolineato così tanto, cioè questa parola inglese disruptive che vuol dire radicale, drastico, dirompente, sempre associata a questa rivoluzione che da molti aspetti può scatenare entusiasmo, ma poi nel concreto può scatenare anche molta paura. Perché l'idea che un imprenditore debba prendere i propri macchinari e buttarli via e affrontare investimenti enormi per traghettarsi verso questo scenario fantascientifico indubbiamente spaventa, ed è uno scenario, ha una rappresentazione anche sbagliata. Quello che è interessante, una delle cose interessanti di questa indagine a mio avviso, è proprio il fatto che chi conosce di più queste tecnologie perché le ha già adottate tende a dare una stima più bassa degli investimenti necessari per adottarle e tende a dare una rappresentazione più alta dei benefici che se ne possono trarre. Chi invece è rimasto indietro, lì tende invece a esattamente l'opposto, cioè quindi c'è una sovrastima dei costi e una sottostima dei benefici. E quindi all'imprenditore che è in ascolto, noi sull'Industry 4.0 che cosa consigliamo? Io consiglio un approccio graduale. Io credo che sia, non io e tecnici che facevano parte di questo gruppo di lavoro, tecnici con competenze ingegneristiche precise, ritengono che sia possibile un inizio graduale, cioè che sia possibile modificare o aggiungere a impianti esistenti una sensoristica, una connessione tra una macchina e l'altra, una estrazione di dati o addirittura un utilizzo di dati che già oggi sono estratti ma che non vengono elaborati. Quindi che ci sia una possibilità di approccio graduale per capire, uno, le potenzialità di queste tecnologie, due, per far crescere al proprio interno dell'impresa anche delle competenze, che spesso non sono competenze banali, che vanno sviluppate con un minimo di gradualità. Quindi credo che l'approccio di implementare modifiche su macchinari esistenti sia un approccio molto ragionevole, specie in un paese come l'Italia dove i vincoli finanziari sono stringenti e dove spesso le imprese hanno dei macchinari anche molto, molto di nicchia, molto particolari, per i quali magari non è così evidente trovare un sostituto 4.0. Ecco, una cosa che emerge dall'indagine è che la tecnologia nella quale gli imprenditori vogliono investire di più è la sicurezza informatica. Allora, questo dato si può leggere in due modi, secondo me. Il primo è che l'interconnessione rende più permeabili i sistemi all'ingresso di hacker che fanno dei danni perché sono pagati dalla concorrenza oppure perché chiedono i riscatti. Il secondo è che, siccome la sicurezza informatica è un investimento in qualche modo obbligatorio, visto che gli altri sono molto piccoli, quello obbligatorio prevale. Sì, quello che lei dice è giustissimo. C'è anche un problema, forse banalmente, di vocabolario, nel senso che alla parola sicurezza informatica possiamo dare tanti significati. Possiamo dire che si tratta dell'antivirus installato sul mio PC, o possiamo dire che Tesla protegge i dati che le proprie automobili scambiano quotidianamente col cloud dall'intrusione di competitors o di hackers o altro. Quindi diciamo c'è anche un tema di vocabolario, di mettersi d'accordo su cosa vogliono dire le parole. Infatti, insomma, nel trarre poi le conclusioni da questa indagine ci siamo posti la domanda se effettivamente i nostri interlocutori avessero attribuito alla parola sicurezza informatica lo stesso significato che attribuivamo noi di questo gruppo di lavoro. Ora però qui mi fanno dei segni e poi è domenica e dunque la devo lasciare. Arrivederci professor Beltrametti. Buona domenica. E buona domenica a tutti gli ascoltatori. La prossima puntata sabato ore 14.